America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Well, I thought, frankly, it was inappropriate for a president-elect of the United States to be stepping into the politics of other countries in a quite direct manner. John Kerry, segretario di Stato, ieri in un'intervista alla CNN, lo avete sentito, si riferisce all'intervista che ha dato il presidente eletto Donald Trump a Time, al Times di Londra, e al Bill tedesco. Beh, un'intervista che ha mosso, come dire, le acque e che ha raccolto questa risposta. Onestamente, dice Kerry, credo che sia inappropriato per un presidente eletto intervenire in modo così diretto nella politica di altre nazioni. È normale che esprima la sua opinione sugli altri paesi, perché da venerdì sarà responsabile di queste relazioni, ma bisogna essere molto cauti. In effetti, Trump nella sua intervista offre dichiarazioni che in superficie ci dicono che la NATO non gli piace, è obsoleta, che l'Unione Europea, dopo la Gran Bretagna, potrebbe perdere altri membri per strada, che l'Unione Europea stessa è stata creata per competere contro gli Stati Uniti e che dell'euro gli importa poco perché un po' non lo conosce, ma lui conosce soprattutto il dollaro e il dollaro, dice, sarà fortissimo. Ma sentiamo che cosa aveva detto Trump non tanto tempo fa in campagna elettorale nella Carolina del Sud, perché coincide con quello che ha ripetuto a questi giornali. It's being destroyed by what Merkel has done there, what she has done to Germany. I have friends from Germany, they're leaving Germany. Ecco, avete sentito Trump in campagna elettorale, attenzione, le scelte di Angela Merkel stanno distruggendo la Germania, io ho diversi amici tedeschi, ebbene, se ne stanno andando in altri paesi, se ne stanno andando, non so che cosa sia successo alla Merkel, la consideravo un grande leader. Ecco, in campagna elettorale, come sappiamo, tutto avviene sopra le righe, però quando sei il presidente degli Stati Uniti, come ha detto Kerry, non intervieni direttamente negli affari interni di un paese, soprattutto quando ci sono elezioni. Ma veniamo alla Merkel, perché Trump ha detto che non la conosce, che istintivamente gli piace, dice però che ha commesso un errore catastrofico, e usa questo termine, nel lasciare entrare decine di migliaia di rifugiati siriani, anzi parla appunto del milione che aveva accettato la Merkel, e arriva persino a mettere sullo stesso piano Angela Merkel e Vladimir Putin. L'intervistatore gli dice, ma lei chi preferisce, con chi si sente più a suo agio, con la Merkel o con Vladimir Putin? E lui dice, ma dal punto di vista mio personale, della predisposizione personale al dialogo, credo che mi troverò benissimo sia con la Merkel, con Vladimir Putin, non faccio una preferenza. Ecco, questa di nuovo è una osservazione che dimostra una certa superficialità su quello che è il posizionamento americano nei confronti della Russia, nei confronti della NATO, nei confronti degli alleati. È una domanda semplicissima. Trump avrebbe potuto eludere la risposta. Invece è più ingenuo di quello che è stato Obama quando cominciò la presidenza. Questo è un fatto. Abbiamo visto che Obama, per via della sua ingenuità e della sua inesperienza, ha commesso degli errori piuttosto seri all'inizio della sua amministrazione. Speriamo che Trump non faccia lo stesso, speriamo che personaggi come Mattis, segretario alla difesa, Rex Tillerson, segretario di Stato e così via, riescano in qualche modo a controllare il possibile impatto negativo di certe sue dichiarazioni, perché partiamo proprio da queste dichiarazioni sulla Germania. Ecco, secondo me, al di là di tutto quello che ha detto, sono fra le più catastrofiche di tutta l'intervista, perché di fatto Trump con queste parole che cosa ha fatto? Beh, senza saperlo, attenzione, di fatto lui è sceso in campo contro la Merkel e a favore degli avversari politici della Merkel in questo periodo elettorale, soprattutto a favore della destra estrema, dell'alternativa per la Germania, della signora Frauke Petri. E, insomma, Trump non può non sapere che ci sono elezioni in Germania, che quello che dice può avere un impatto. Ebbene, ce l'ha detto lui stesso, non lo sapeva. Preoccupa anche la posizione di Trump sul piano commerciale, perché dimostra di avere una completa mancanza di comprensione di quello che è l'impianto multilaterale che è stato creato dagli stessi Stati Uniti d'America lungo diverse amministrazioni repubblicane e democratiche per tutelare un ordine economico mondiale che potesse garantire stabilità anche politica, oltre che economica. E su questo tema Trump entra a gamba tesa proprio sull'Europa. Dice, l'Europa unita è stata formata per battere l'America sul piano commerciale. Ecco, devo dire che è difficile immaginare una dichiarazione meno informata o più riduttiva di questa su quello che era il processo che ha portato all'Unione Europea, l'idea di creare un processo politico, di evitare che ci fossero guerre. Però ecco, è così che ragiona Trump, come se fosse ancora in campagna elettorale e non all'ufficio Ovale, da dove, e forse chissà con le reazioni dopo questa intervista se ne renderà conto, da dove ogni parola che esce dal presidente degli Stati Uniti d'America pesa quanto un macigno. Ma sentiamo il commento di Peter King, membro repubblicano dell'Intelligence Committee alla Camera, che ha fatto dopo l'intervista di Trump. The obsolete term was in reference to doing more against terrorism. Again, Donald Trump has his own way of speaking and obviously if his defense secretary believes in NATO... Peter King parla della NATO e dice con il termine obsoleto Trump si riferiva all'inefficienza della NATO nella lotta contro il terrorismo. Comunque la NATO è vecchia, ma Trump ha un modo tutto suo di parlare e comunicare e il prossimo segretario della difesa, James Mattis, crede nella NATO e anche Trump crede nella NATO. Ecco, è stato l'onorevole Peter King a fare da traduttore, vi dicevo in apertura che qui bisogna tradurre, interpretare, capire. E condivido perché non credo che ci sia da preoccuparsi nel caso della NATO più di tanto queste dichiarazioni di Trump. Leggendo la trascrizione dell'intervista, Trump dice di voler riformare la NATO, ma di considerarla molto importante. Non dice rinuncio alla NATO. Vuole che la NATO si occupi più di terrorismo e che non siano solo 5 paesi membri a versare i contributi dovuti, ma tutti. Obsoleta, nel senso che la sua missione in questo momento serve a poco, dice Trump. In sostanza, il presidente eletto americano non dice molto di nuovo rispetto a Obama o anche rispetto a Bush. Lo dice solo in modo più brusco, in modo non diplomatico. Per esempio, Obama aveva già chiesto ai paesi membri di portare al 2% del PIL le loro spese militari, che poi andavano a favore dell'alleanza. Trump chiede il 2,5%, però si muove nella stessa direzione di Obama. E fu Bush senior a cambiare la missione della NATO dopo la fine della Guerra Fredda. Da alleanza esclusivamente destinata a contenere l'Unione Sovietica, la NATO avrebbe intrapreso, ha detto Bush, anche missioni esterne. Una guerra contro il terrorismo potrebbe in effetti essere una missione comune. E Trump cosa ha detto in questa intervista? Dice, ho visto che adesso un battaglione è partito dalla NATO. Forse, ha detto, mi stanno già ascoltando. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più nei difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, è partito Davos, una gran quantità di delegati, ospite d'onore d'eccezione quest'anno, Xi Jinping, il primo presidente cinese che partecipa a Davos. E ieri c'è stato un evento particolare, e cioè a Davos hanno assegnato alla cantante Shakira il Crystal Award. Ormai questa organizzazione si sta trasformando in un grandissimo circo multiculturale e trasversale, e dunque a lei, a Shakira, che è riuscita a penetrare il vertice dei potenti, dedichiamo la canzone del giorno, Whenever, Wherever. è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!